Passione Africana di Gigi Donelli e Roberto Antonini. Ben ritrovati da Roberto Antonini, da Lusaka, sempre col bus, direzione nord, le zone minerarie verso la frontiera con la Repubblica Democratica del Congo. 6 ore di viaggio dalla capitale per raggiungere Kitwe, nella provincia del Copperbelt, della cintura del rame, la cui estrazione rappresenta la principale fonte del paese, 80% degli introiti da esportazione. Non è ovviamente lo Zambia della natura lussureggiante delle grandi riserve naturali, la strada asfaltata dai cinesi attraverso un paesaggio costellato di villaggi, di aree industriali e di miniere. Nazionalizzato negli anni 70, dopo il crollo delle quotazioni del rame, il settore minerario è ora in mani private, quasi unicamente straniere, indiane, canadesi, svizzere e soprattutto cinesi. La presenza del gigante asiatico suscita reazioni contrastanti, come ci spiega un minatore, Modesta Gawe. I cinesi vengono qui e investono, hanno molti soldi, rimettono in sesto vecchie miniere obsolete, abbandonate, e le fanno funzionare. Però assumono pochissimo, portano qui i loro lavoratori dalla Cina, anche prigionieri che poi vivono in villaggi appartati. Pochi di noi invece vengono assunti e chi lavora per i cinesi più delle volte è precario, gli fanno un contratto di 6 mesi o un anno. La zona mineraria è quella del confine con la Repubblica Democratica del Congo. Dall'altra parte il paesaggio della provincia del Katanga sembra una fotocopia di quello della Copperbelt. Al posto di frontiera di Kasumbalesa, sui due bordi della strada sterrata sono fermi migliaia di camion e grossi tir, spesso vecchi arrugginiti che trasportano macchinari, lastre di rame, tondini di ferro o carburante. Ovunque cambia valute, dealer, venditori ambulanti, mazzette di dollari che passano di mano in mano e arrivano inevitabilmente a poliziotti e doganieri. Qui è il regno dell'abuso e della corruzione. Per transitare bisogna pagare. E i giornalisti, ahimè, sono indesiderati nel Katanga, provincia del Congo, dove saremmo dovuti andare. Niente da fare dunque, malgrado il visto regolare, il nostro viaggio si interrompe. Dobbiamo tornare a Lusaka e raggiungere, questa volta con l'aereo, il Ruanda. Passione Africana è stata realizzata da Radio 24 in collaborazione con Eni.